Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Si può fare politica anche al di fuori delle istituzioni. Io sono un cittadino, sono stato eletto, ho portato avanti il mio mandato, lo terminerò e poi continuerò a sostenere il movimento e a fare politica al di fuori dei palazzi. Mi sembra una scelta piuttosto normale. Fa scandalo un po' in Italia perché sono tutti abbullonati alle poltrone. Abbullonati alle poltrone, dice Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle. Ieri gli avevamo detto proprio così, un po' un veloce cenno, perché era successo, diciamo, in serata questa decisione di Alessandro Di Battista su Facebook. Ha fatto un video su Facebook dicendo appunto che non si vuole candidare per le prossime elezioni, perché adesso ha un figlio, ha cambiato un po' prospettive, priorità, eccetera. Insomma, su questa sua decisione sono state date essenzialmente due interpretazioni: una un po' romantica, sentimentale, un uomo che per una volta decide, una volta avuto un figlio, di dare appunto un'importanza maggiore a questa cosa che non alla sua carriera, no? E dall'altra invece l'interpretazione è che si tratta di una mossa strategica, di tatticismo. Ce ne occuperemo, parleremo molto di politica, perché tra l'altro ci sono molte dichiarazioni di Renzi che è registrato questa sera a Porta a Porta. Vuole sfidare Berlusconi se sarà candidabile, perché Berlusconi, che sarà Matrix invece a sua volta questa sera, sta aspettando per domani l'esito del suo ricorso alla Corte di Strasburgo contro la sua incandidabilità. Quindi vedremo anche da questo punto di vista che cosa succede. E poi ci sposteremo anche all'estero. In Germania ancora non c'è un governo. Che cosa succede alla cancelliera Merkel? Nel frattempo c'è in corso la partita di Champions del Napoli. E poi ci sono altre questioni che riguardano Tavecchio, insomma tante cose come sempre. Quindi sto per partire prima di tutto con il riassunto della giornata e poi andremo su questi argomenti. Per i vostri commenti, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero al quale potete inviare SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666. Previdenza, sindacati ancora divisi sulle misure del governo. Dopo il nuovo incontro con Gentiloni, la CGIL conferma il no e indice una prima mobilitazione per il 2 dicembre. Zimbabwe, dopo 37 anni finisce l'era di Mugabe, popolo in festa dopo le dimissioni del dittatore. Politica italiana, Berlusconi attende per domani il responso di Strasburgo sulla sua incandidabilità e dice adesso il vero pericolo sono i 5 Stelle. E per il centrosinistra, Renzi si dice indisponibile a ripristinare l'articolo 18. Germania ancora niente governo e oggi la polizia ha arrestato 6 rifugiati siriani che pianificavano un attentato ai mercatini di Natale di Essen. La morte di una 14enne a Roma, le hanno diagnosticato un po' di stress, ma era un aneurisma, aperta un'inchiesta. Banche, aumenta il costo dei conti correnti, nel 2016 a 77,6 euro. Arte, rubato in Francia, un dechirico dal valore inestimabile, furto nel museo Béziers. Per il calcio, Napoli in campo nella partita di Champions contro lo Shakhtar, partenopei obbligati a vincere. Partiamo quindi dal tema delle pensioni. Il governo, col suo pacchetto di misure sulla previdenza, non convince la CGIL, che annuncia una mobilitazione. Non basta l'impegno più esplicito sulle pensioni dei giovani, né l'allargamento dei requisiti di accesso all'APE social per le lavoratrici con figli, ultimi punti inseriti dal governo nel testo finale insieme alla garanzia di blindare il testo in Parlamento. Misure sostenibili e molto rilevanti, dice il premier Gentiloni, ma per la CGIL il giudizio resta negativo. Susanna Camusso. Noi confermiamo un giudizio di grande insufficienza del testo che oggi il governo ha prodotto come suoi impegni rispetto alla legge di bilancio. La CGIL indice per il 2 dicembre la prima mobilitazione. Positivo invece il giudizio della CISL, Anna Maria Furlan. Diamo un giudizio positivo del percorso e del lavoro fatto. Positivo ma più cauto, Barbagallo, UIL. Abbiamo fatto il massimo possibile con le condizioni economiche date. Sindacati che dunque restano divisi, ma nessuna firma esce al termine del confronto, anche per non certificare la spaccatura. Il pacchetto del governo, sostenuto dalle sole CISL e UIL, si tradurrà in emendamenti alla manovra. Il ministro del lavoro Poletti. Proporremo degli emendamenti alla legge in modo tale da poter cogliere questi dati. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E questo delle pensioni sarà naturalmente uno degli argomenti di approfondimento di questa puntata di Effetto Notte. Intanto dall'Istat arrivano nuovi dati che certificano la ripresa in atto. È una conferma quella che arriva dall'Istat, con una crescita che quest'anno, secondo le stime, chiuderà un più 1,5%, un valore in linea con le previsioni di Palazzo Chigi e che risulta essere il più elevato dal 2010. L'Istituto di Statistica rivede dunque al rialzo le indicazioni su quest'anno, che davano il PIL in aumento dell'1%. Netta accelerazione poi sul 2016, che si chiuse con un più 0,9%. Il miglioramento del PIL, spiegano dall'Istat, è atteso proseguire su ritmi analoghi anche nel 2018, più 1,4. Buone notizie anche per la disoccupazione. Quest'anno il relativo tasso è atteso in moderata diminuzione, dall'11,7 all'11,2%, numeri su crescita ed occupazione che soddisfano comunque il governo, così il presidente del Consiglio Gentiloni. Non è una ripresa senza lavoro. Trovo molto importante che oggi l'Istat abbia certificato che la crescita italiana di questo periodo corrisponde anche a un calo del nostro tasso di disoccupazione. C'è poco da gioire per i dati sul mercato del lavoro, replicano dalle opposizioni. Brunetta, Forza Italia, guarda alla media europea pari al 7,5% e dice: siamo lontani da un valore che l'Italia non vede dall'ultimo governo Berlusconi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora spostiamoci sulle notizie dall'estero. Zimbabwe, il presidente dello Stato africano Robert Mugabe si è dimesso, lo ha annunciato il presidente del Parlamento dopo aver ricevuto una lettera dall'anziano leader al potere, pensate, da 37 anni, ora ne ha 93. Si chiude così un lungo braccio di ferro cominciato con l'intervento delle forze armate nella capitale. Il partito al governo aveva presentato una mozione in Parlamento per l'impeachment, la messa in stato d'accusa del presidente, sostenuta anche dal partito di opposizione. Mugabe era accusato di aver provato a passare il testimone alla seconda moglie Grace, che ha 42 anni meno di lui, e di essere troppo vecchio per governare, appunto 93 anni. Ci sarà modo durante questa puntata di Effetto Notte di capire qualcosa di più del profilo di questo dittatore e anche dello Stato africano. E poi in Germania ancora niente governo, un momento di seria difficoltà per la cancelliera Merkel, che ieri aveva detto: meglio tornare a elezioni che avere un governo senza forza. Intanto sono partite oggi le consultazioni del presidente Steinmeier. E oggi la polizia in Germania ha arrestato 6 rifugiati che pianificavano un attentato ai mercatini di Natale di Essen, dopo, vi ricordate, l'anno scorso quello di Berlino. Nel corso di Effetto Notte comunque torneremo a parlare di Germania. Germania che tra l'altro è tra i paesi che non avrebbero votato per l'Italia ieri a Bruxelles, dove si è scelta la nuova sede dell'EMA, dell'Agenzia del Farmaco. Gentiloni pare si sia molto arrabbiato per invece il voltafaccia di Madrid, che nega che ci sia stato prima un accordo, e poi invece anche dalla Farnesina è arrivata una smentita: non ce l'abbiamo con la Spagna, nessuna critica alla Spagna. Di futuro comunque dell'Europa hanno parlato oggi Renzi e Macron all'Eliseo. Il segretario del PD è atteso stasera in TV, ospite da Vespa, Porta a Porta, alla vigilia dell'udienza a Strasburgo per discutere dell'incandidabilità di Berlusconi, scattata dopo la condanna, vi ricordate, a 4 anni nel processo Mediaset. Un'ora in tutto salvo domande per una nuova udienza che riguarda Silvio Berlusconi, attesa dalla politica. A distanza di 4 anni dal ricorso, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si prepara a discutere della decadenza e della ineleggibilità dell'ex premier in virtù della legge Severino. Un verdetto, quello di Strasburgo, che quando arriverà potrà determinare il suo futuro politico, a cominciare dalle prossime elezioni. Ma proprio quello che è l'elemento cruciale, ossia i tempi della sentenza, è anche il fattore più incerto, al contrario invece del rigore che scandisce l'udienza davanti alla grande camera. Mezz'ora per gli avvocati di Berlusconi, mezz'ora per i delegati dal governo e 3 questioni fondamentali: se l'incandidabilità non sia applicabile in modo retroattivo, se la decadenza senza appello violi il diritto ad un ricorso effettivo e poi se sia una misura proporzionata. Per l'ex presidente della Corte, Costa, il cui parere è stato depositato dai radicali ammessi come parte terza, non lo è. Terminata l'udienza, i 17 giudici entrano in camera di consiglio, ma per una sentenza si può aspettare a volte anche un anno. Nessuna pressione, dice con Radio 24 il guardasigilli Andrea Orlando. La Corte va rispettata nella sua autonomia e non deve essere messa sotto nessun tipo di pressione. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso di nuovo all'estero, parliamo di Montenegro, la Repubblica, questa Repubblica balcanica dove viene perpetrata la strage silenziosa dell'aborto selettivo a danno delle bambine, come riporta il Corriere della Sera. I genitori del Montenegro, nel solco di barbariche tradizioni patriarcali, sempre più spesso decidono di scegliere il sesso dei figli, liberandosi subito con un aborto selettivo, appunto, delle femmine. E certo non è una novità, se ne è parlato per decenni e decenni, lo sapete, per quanto riguarda la Cina e l'India, e ancora in parte prosegue. Si tratta di un eccidio di proporzioni spaventose, tanto che già nel 1990 aveva sintetizzato questa strage l'economista e filosofo indiano Amartya Sen, che 2 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per l'economia. Aveva detto: mancano nel mondo almeno 100 milioni di donne. Di nuovo in Italia con la cronaca. A Milano gli studenti di scuole superiori e università in protesta all'Università Bicocca hanno fatto irruzione nell'Aula Magna, dove si tiene stasera la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Hanno protestato per essere stati esclusi. Un loro rappresentante è salito sul palco per parlare anche davanti alla ministra dell'istruzione Valeria Fedeli. E poi invece a Roma, per i medici del pronto soccorso dell'ospedale Pertini era solo stress, invece si trattava purtroppo di un aneurisma cerebrale. In questo modo è morta lo scorso 6 novembre una ragazzina romana di 14 anni. La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. La ragazzina si era sentita male a scuola dicendo: mi scoppia la testa, poi aveva perso i sensi ed era stato diagnosticato lo stress. Soldi. Sale nel 2016 la spesa media di gestione di un conto corrente bancario, cresciuta di poco più di un euro rispetto all'anno precedente, attestatasi a 77,6 euro. E quanto si legge nell'indagine annuale sui costi dei conti correnti delle famiglie della Banca d'Italia, convengono di più i conti correnti online, che costano in media 14,7 euro l'anno. E parliamo anche dello sciopero nazionale dei taxi, che terminerà alle 22, tra meno di un'ora, a Roma questa mattina. Momenti di tensione. Regole certe. È questa la molla che ha fatto scattare lo sciopero nazionale dei tassisti contro le proposte del governo sulla riforma quadro del settore. Proposte che, secondo i sindacati di categoria, deregolamentano invece il settore attraverso la liberalizzazione dei noleggi con conducente a vantaggio di Uber, l'app che mette in contatto autisti privati e clienti. I tassisti oggi hanno incrociato le braccia in tutte le città dopo l'incontro di ieri al Ministero dei Trasporti. Uno sciopero considerato però ingiustificato dal viceministro Riccardo Nencini. Il mondo è cambiato, spiega. Da 9 mesi si lavora sulla riforma con taxi ed NCC. Al tavolo il governo ha proposto regole per evitare il caos nel settore. E ora, dopo lo sciopero, dice Nencini ai microfoni di Focus Economia, si andrà avanti. Il tavolo di concertazione aveva 2 obiettivi da raggiungere, sui quali eravamo tutti d'accordo. Il primo, un decreto contro l'abusivismo, già siglato, sta facendo il suo iter. Secondo, la riforma della legge del 92. E da questo stiamo lavorando. È un obiettivo che il governo può raggiungere, può farlo anche con una varietà importante delle sigle che stanno a quel tavolo, lo ripeto, una trentina, e non è facile, e quindi la mia opinione è che si debba proseguire. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. Una notizia d'arte negativa: furto in Francia di un quadro dal valore inestimabile di Giorgio De Chirico. La composizione con autoritratto del 1926 è stata rubata al Museo di Belle Arti di Béziers, nel sud della Francia, di un valore inestimabile, appunto, secondo gli esperti. L'opera del pittore italiano faceva parte della collezione di Jean Moulin, figura storica della resistenza francese, nato proprio a Béziers. E chiediamo adesso al nostro Dario Ricci se è di un valore inestimabile questa partita del Napoli in Champions League. Dario? Sì, direi di sì, potenzialmente sì, non come il quadro di De Chirico, ma insomma anche il Napoli è chiamato a dipingere il suo capolavoro in un San Paolo semideserto, ahimè, uno scenario non troppo come bello. Mai? Per, come mai? Chissà, insomma, le partite sono tante, anche i tifosi sono chiamati un po' a scegliere, anche se questa con lo Shakhtar è importantissima, perché il Napoli deve per forza vincere per rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions. Siamo al 32esimo, Roberta, risultato ancora inchiodato sullo 0-0, e ucraini che, già vittoriosi all'andata, confermano la qualità della rosa a disposizione di Fonseca. Vicini al gol al 9° minuto con Tyson, che si chiama sì come il famoso pugile, ma fortunatamente non ha il colpo del KO, tant'è che proprio da pochi metri ha calciato debolmente al lato della porta di Reina. E poi Napoli che ha risposto in più di un'occasione, soprattutto al 27esimo, una splendida conclusione del solito Insigne, bravissimo Piatov, il portiere ucraino, a salvare. La mia incertezza è dovuta al fatto che adesso Marlos per lo Shakhtar è andato vicinissimo al gol, un bel destro dal limite dell'area. Reina ha parato e deviato in calcio d'angolo. 33esimo di gioco in questo istante, 0-0 al San Paolo tra Napoli e Shakhtar. Grazie Dario Ricci, a dopo allora per ulteriori aggiornamenti su questa partita. Intanto aggiorniamo invece adesso chi sta viaggiando e così poi ritorniamo subito dopo e cominciamo a occuparci di alcuni argomenti in particolare con gli ospiti. Ci saranno le pensioni, parleremo di politica e anche di Zimbabwe. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per messaggio WhatsApp che è 349-238-6666. Ringrazio che si firma il Ragno Nero e ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tante sono le notizie, come sempre, tanti anche i vostri messaggi, devo dire, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia gli sms, i WhatsApp che arrivano al 349-238-6666. Molti sulla politica, sia sulla decisione di Alessandro Di Battista di non candidarsi alle prossime elezioni, sia su Berlusconi, che sta attendendo per domani la sentenza della Corte di Strasburgo sulla sua incandidabilità, e anche sul fatto che ha detto: io nel 94 sono sceso per dovere, per spirito etico, per combattere i comunisti, questa volta il vero pericolo è il Movimento 5 Stelle. E dice: posso anche essere in difficoltà, ma Berlusconi o chi per lui non lo voterò mai. Nel 94 se non fosse sceso in campo i comunisti avrebbero vinto. Chi chiama l'ambulanza, dice poi Nino, qualcuno ha scritto costruttore di nemici, sono pienamente d'accordo, alla fine si è reso conto che avercela con i comunisti è inutile, non se ne trovano da almeno 20 anni. Questi sono i vostri commenti politici. Adesso ci concentreremo però su questioni che riguardano invece la geopolitica, però prima di tutto vi ricordo, insomma, avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti del giorno. Previdenza, sindacati ancora divisi sulle misure del governo. Dopo il nuovo incontro con Gentiloni, la CGIL conferma il no e indice una prima mobilitazione per il prossimo 2 dicembre. Di Zimbabwe parleremo tra pochissimo, dopo le dimissioni, dopo 37 anni del dittatore Mugabe. La politica italiana con Berlusconi, che attende per domani il responso di Strasburgo e dice adesso il vero pericolo sono i 5 Stelle, e per il centrosinistra Renzi si dice indisponibile a ripristinare l'articolo 18. E poi la morte di una 14enne a Roma, le diagnosticano un po' di stress ma era un aneurisma, aperta un'inchiesta contro ignoti. E poi arte, rubato in Francia un dechirico dal valore inestimabile, furto nel museo Béziers. E il Napoli poi, che è in Champions, per il momento contro lo Shakhtar è 0-0. Quindi partiamo dall'Africa, dallo Zimbabwe, con le dimissioni di un dittatore, Robert Mugabe, al comando del paese per ben 37 anni. Ce ne sono tanti di presidenti, dittatori nel continente africano che hanno superato i 30 anni di governo. Lui era il più anziano leader del mondo, finché è stato leader, è sempre vivo, però ha 93 anni e oggi si è dimesso dopo la presa del potere da parte dei militari. Ha resistito circa una settimana, poi ha ceduto, e questo ha fatto esplodere la gioia in Parlamento, nelle piazze, nelle strade, grande festa del popolo dello Zimbabwe. Ne parliamo con Rocco Ronza, che è docente di geoeconomia all'Università Cattolica di Milano e ricercatore dell'ISPI. Ronza, buonasera. Buonasera. Ecco, se dovesse dire così in un'istantanea, una Polaroid, che era stata quella di Mugabe e che paese è lo Zimbabwe? Ma allora, forse partiamo dallo Zimbabwe, che è un paese lontano dal punto di vista della prospettiva nostra italiana, ma molto diciamo così, molto seguito soprattutto dai media anglo-americani, perché è un po' la periferia del Sudafrica, che è la parte dell'Africa tutto sommato più sviluppata, più interconnessa anche con le economie mondiali, eccetera. Lo Zimbabwe è come fosse un po' un appendice del Sudafrica dal punto di vista economico, e ne aveva anche in qualche modo diciamo, condiviso anche i problemi legati alla presenza di regimi bianchi durante l'ultima fase della guerra fredda, con anche la coda di decolonizzazione tardiva e anche conflitti armati. Era una colonia britannica, no, lo Zimbabwe? Era una colonia britannica nata in realtà con una forte presenza di settlers bianchi, si chiamava Rhodesia, infatti. Era la vecchia Rhodesia del sud, lo Zambia era la Rhodesia del nord, e si emancipa quindi tardi sotto l'elite bianca, sotto la minoranza bianca nel 65, nasce un movimento di resistenza nero appoggiato in parte dalla Cina e dai paesi del blocco del Patto di Varsavia, di cui Mugabe è uno dei leader, e tra il 79 e l'80 il regime bianco cede in anticipo rispetto a quel che sarebbe successo 14 anni dopo, 10 anni dopo, diciamo, in Sudafrica, e inizia l'era di questo presidente, che forse è l'ultimo dei presidenti coi piedi, diciamo così, nella guerra fredda. Mm. E negli ultimi anni sono Mugabe era stato anche in carcere, quindi allora sembrava un eroe, insomma, no? Nel 1980, negli anni 80. Sì, no, Mugabe è diciamo, uno di quei leader che nascono come eroi della resistenza antiimperialista in tutto il terzo mondo, che poi finiscono la loro carriera come dittatori cattivi, ma che invece la iniziano con tutto un altro tipo di fascino, sia all'interno ma anche nell'opinione pubblica occidentale. Poi lui ha anche un altro elemento, è un leader piuttosto colto, aveva studi universitari, aveva fatto scuole con i gesuiti, aveva anche una buona fama nel mondo degli africanisti, anche progressisti in Inghilterra, per cui quando poi suo ultimo ventennio più autoritario e negativo, ha anche creato una specie di, dato un senso di tradimento per chi invece l'aveva sostenuto, considerato sì. Lui il compromesso con cui comunque finisce la guerra civile in Zimbabwe tra bianchi e neri nell'80, a quell'epoca che Sudafrica era ancora in bilico, era emerso come una buona notizia, quasi fosse un anticipo di quello che avrebbe potuto evitare, e si è evitato poi in Sudafrica. Però insomma, legatissimo al potere, tanto da non voler mollare neanche a 93 anni, dico, quando uno ha 93 anni vorrebbe rilassarsi in una vita tranquilla, no, anzi voleva che gli succedesse la seconda moglie Grace, che mi pare abbia 42 anni meno di lui, poi finalmente insomma hanno spinto in modo da dire insomma se vuoi... È una vittoria della storia questa, più che della politica, proprio è che alla fine il tempo logora, si muore, cioè diciamo si diventa vecchi e si muore. Per forza, quindi per vie naturali. Ronza, sì, mi dico una cosa, professore, ma adesso c'è Theresa May, prima ministra britannica, che dice finalmente l'ex colonia adesso potrà avere un governo democratico, noi faremo tutto il possibile per sostenere il desiderio degli zimbabweani di avere elezioni libere, giuste, l'opportunità di ricostruire l'economia, ma leggevo che ci sarebbe il ritorno del cosiddetto coccodrillo, questo personaggio, quindi non mi fa sperare bene. Lei in sintesi che cosa dice? Che Mugabe ha retto in realtà negli anni d'oro della democratizzazione globale, cioè quelli che vanno a fine anni 90 e la prima metà degli anni 2000, lui in fondo ha retto il colpo, quando non è il suo nemico democratico, leader del movimento per il cambiamento democratico, Morgan Tsvangirai, sostenuto dagli occidentali con ottime credenziali democratiche, che l'ha rovesciato. È stato un suo movimento interno al suo partito, e il suo successore è un suo collaboratore di tanti anni, cioè diciamo, mutatis mutandis è un po' come Raul Castro che subentra Castro, però quando Raul Castro subentra Castro vuol dire che la storia ormai ha preso un po' un'altra il suo spazio e le cose stanno cambiando. Non stanno cambiando, non è un trionfo della democrazia come sarebbe potuto essere all'inizio degli anni 2000 se la spallata sostenuta dalla comunità internazionale, dall'Inghilterra di Blair di allora avesse prevalso, ma allora Mugabe resse, tra l'altro mostrando di avere comunque, oltre a un attaccamento al potere forte e una grande spregiudicatezza e energia, anche il sostegno di una parte almeno delle campagne del Zimbabwe. Bene, grazie professor Rocco Ronza, grazie, vediamo grazie se cambia davvero questa, grazie. Si apre una nuova era. A proposito di longevità dei leader anche in Italia, saluto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Buonasera. Ciao Barbara. Ora non voglio fare un paragone perché sono due persone naturalmente completamente diverse, Berlusconi non è un dittatore, attende per domani però tornato al centro della scena politica italiana, nonostante tutto, anche lui cosa c'ha, i suoi 81 anni, e il 27 novembre 2013 era stato estromesso dal Senato per la legge Severino, è stato condannato a 4 anni per la vicenda Mediaset e quindi incandidabile. Adesso però attende per domani la sentenza della Corte di Strasburgo per capire se può ritornare completamente appunto nella politica, essere candidabile. Sì, diciamo subito che la sentenza non arriverà domani. Domani c'è l'udienza della Corte di Strasburgo e tra l'udienza e il verdetto passano solitamente 7-8 mesi, quindi è molto probabile che anche se avesse un verdetto positivo, questo verdetto non arriverà in tempo per le elezioni politiche che presumibilmente si terranno tra marzo e maggio, in quanto la legislatura ormai è finita di fatto. Quindi non ce la farà comunque, però come dicevamo è tornato. Come giustamente dicevi, è ritornato al centro della scena politica, intanto perché è inevitabile che questo avvenga nel momento in cui il centrodestra, avendo ottenuto nell'ultimo anno una serie di successi sia alle amministrative, alle regionali, quando vinse Toti la Liguria, poi alle ultime comunali, Genova ed altre città importanti, e poi infine la Sicilia l'altro ieri, d'inizio novembre, in cui il centrodestra è prevalso, hanno rimesso al centro della scena inevitabilmente Berlusconi, perché il centrodestra senza Forza Italia e quindi senza Berlusconi, che di fatto è Forza Italia, non avrebbe alcuna possibilità di essere competitivo nella competizione elettorale. Quindi lui scena l'ha riconquistata, e questa udienza e questa attesa sul verdetto, tutto sommato, enfatizza ulteriormente la sua presenza sul palcoscenico politico. Berlusconi, tra l'altro, ha detto, Matrix 105 ha detto, in me è scattato un senso del dovere che ho avuto nel 94, quando se non fossi sceso in campo i comunisti avrebbero vinto. Adesso il pericolo sono i 5 Stelle e non vedo in giro persone che meglio di me possano parlare agli italiani, convincerli del pericolo, anche a quelli disgustati che si astengono perché rassegnati. Vedo molti messaggi. Enrico dice, come sempre scende in campo semplicemente per tutelare i propri interessi, che è quello che la maggior parte degli italiani crede di fare votando. Poi Claudio dice, invece i paroloni non servono, è triste dirlo, ma ha ragione, in Italia molto meglio Berlusconi che tutti gli altri messi insieme, magari avesse 40 anni in meno. A proposito di età, c'è un ascoltatore che dice, l'avversario di Berlusconi è Ramsete II. In realtà Renzi ha detto, in questa registrata di Porta a Porta di questa sera, che gli piacerebbe sfidare Berlusconi se fosse candidabile. Lo sentiamo? Siccome tutte le sante volte leggo sui giornali che c'è l'accordo segreto, che c'è chissà che cosa, a me piacerebbe che i cittadini potessero nello stesso collegio vedere candidarsi Berlusconi, io contro il sottoscritto, contro Berlusconi. Questo Renzi, che oggi è stato da Macron a Parigi, e cioè, dice una lotta nostra insieme contro i populismi. Però viene da dire che a Renzi piacerebbe molto questo. Vero? Gli piacerebbe, perché certamente avere come competitor Berlusconi sarebbe una sorta di déjà vu, cioè di centrodestra contro centrosinistra, i due poli storici. E invece c'è anche il Movimento 5 Stelle. E poi ne parleremo. Senti, Renzi, sull'alleanza che ha dato come missione a Piero Fassino di creare, no, questa ampia coalizione, larga coalizione per andare alle elezioni in primavera, ha detto rispetto a MDP e fuoriusciti del Partito Democratico: non sono ottimista sull'unità di tutto il centrosinistra, però abbiamo tempo. Mi pare che Bersani abbia di nuovo detto non ce n'è per questa alleanza. Vogliamo allora sentire Speranza, sempre di MDP? Intanto Renzi è un nome del passato di questo paese, non è un nome del futuro, io di questo sono convinto. E poi noi costruiremo una grande forza politica popolare, larga. Ci sono tantissime persone che vogliono cambiare, vogliono un campo diverso. Non va bene Renzi, Berlusconi, Salvini, Grillo, non sono in grado di offrire una prospettiva positiva a questo paese. Questo dice Speranza, e poi ritorna sull'elemento principale che c'è in gioco per una possibile alleanza tra PD e MDP, che è quella di ripristinare l'articolo 18. Sentiamo Speranza su questo a proposito di Jobs Act. Pensiamo che vadano reintrodotte le tutele e le garanzie dell'articolo 18. Che cosa fa il PD? Che cosa fa il governo? La rimanda in commissione affondandola di fatto, oppure dà un segnale vero? Perché le alleanze non si possono fare solo sui nomi, vanno fatte sui contenuti, e i contenuti purtroppo in questa fase sono molto diversi. Ecco, però Renzi ha detto sempre questa sera in Porta a Porta che non ha nessuna intenzione indisponibile a reintrodurre l'articolo 18, quindi non ci sarà modo di creare questa alleanza, no? Come più volte hai detto. Ma mi sembra, appunto, come ho già detto tante volte, mi sembra un po' un gioco delle parti. La scissione è ancora troppo fresca per pensare che gli stessi, come dire, scissionisti piuttosto che Renzi ritornino al tavolo come se nulla fosse accaduto. Di fatto Speranza si sta ponendo insieme agli altri su una strategia che abbiamo visto anche in passato non molto vincente, almeno in Italia, nel senso che poi la sinistra fino ad ora è rimasta sempre molto minoritaria, e devo dire che anche c'è anche una certa consapevolezza da parte dei bersaniani, visto che si parla ad esempio del nome di Grasso come possibile leader di questa coalizione di sinistra, proprio perché anche i loro nomi, non solo quello di Renzi o di Berlusconi, sono ormai vetusti, ma probabilmente anche i loro, e quindi si cerca di darsi una spolverata mettendo qualcuno, come dire, non organico al partito, no? Per usare espressioni politichesi. Appunto. Barbara, per chiudere, abbiamo veramente un minuto, però di nuovo ritorniamo su Di Battista. Ieri ti avevo fatto sentire brevemente, no? Di Battista, Alessandro Di Battista, che dice: io non mi ricandido per le prossime elezioni, ho avuto un figlio, questo evidentemente ha cambiato un po' la prospettiva, le priorità della sua vita, ha detto che farà un lungo viaggio. Allora, qualcuno l'ha letto come una scelta controcorrente di un uomo, no? Di solito sono sempre le donne, da che mondo è mondo, che rinunciano alla carriera per i figli, per occuparsi della famiglia. Questa volta l'ha fatto un uomo, è anche, insomma, un esponente politico di spicco, però invece qualcun altro, e anche tu stessa, mi fai capire, anche ieri l'avevi appena accennato, che si tratta di tatticismo secondo te. Ti dico per esempio qualche messaggio, C'è Rossana che dice: un mito, è rarissimo oggi trovare un mito. Davide dice: un uomo libero. Andrea: la dimostrazione che 5 Stelle non sono attaccate alle poltrone. Mentre Simone dice: ha capito come si può vivere bene in Italia. Salvatore scrive: lungimirante, con le nuove regole farà opposizione nei prossimi 70 anni. Tu cosa pensi, in breve, molto breve? Io penso che sia una carta di riserva di Battista. Poniamo ad esempio, faccio un'ipotesi, ma insomma anche oggi è saltato un altro manager a Roma, poniamo che le cose a Roma precipitino e non vadano troppo bene, sarebbe un fallimento dei 5 Stelle, sarebbe un po' come è accaduto al PD con Marino, sarebbe molto complicato riconquistare la capitale. Avere di riserva una carta come un romano doc e per di più amatissimo dal suo elettorato come Alessandro Di Battista potrebbe essere una carta di riserva molto importante. Al posto della Raggi, tu dici, si sta scaldando per addirittura prima del c'è in ballo insomma un processo sulla Raggi, cioè, insomma, il malessere al di là della vittoria di Ossia, insomma, mi sembra che sia evidente a Roma, e quindi avere Di Battista come carta di riserva non è male. Potrebbe essere una buona, ottima risorsa, hai capito? Questa è la lettura di Barbara Fiammeri. Bene, staremo a vedere come va a finire, ci sarà ancora del tempo. Ciao Barbara. Arrivederci. Ciao Barbara. Pausa e poi di nuovo insieme con altri argomenti. 349-238-6666, il numero per WhatsApp ed SMS, se no la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete ormai, siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberta Giordano a raccontarvi le notizie più importanti della giornata e anche a cercare di capirle meglio insieme agli ospiti, come faremo ancora tra poco con un altro argomento. Vi ricordo molto velocemente che le notizie più importanti sono che il pacchetto del governo sulle pensioni presentato ai sindacati non convince la CGIL, che dice che scenderà in piazza il 2 dicembre, ne parleremo tra pochissimo. Poi il dittatore Mugabe dopo 37 anni lascia il potere in Zimbabwe, quindi finisce la sua epoca, ne abbiamo parlato, e grande festa da parte del Parlamento e anche della popolazione. Renzi dice: se Berlusconi è candidabile lo sfido in un collegio. Intanto c'è attesa per quanto riguarda Berlusconi per l'udienza a Strasburgo, domani ci sarà quest'udienza, ma è probabile che non arrivi subito la risposta sulla sua candidabilità o meno. E poi commissariamento della FIGC, ora Malagò aspetta le leghe, dice: io non sono comunque disponibile come commissario, ho molto da fare. Questa vicenda della ragazzina 14enne morta a Roma, per è stato diagnosticato lo stress, invece era un aneurisma. E poi il furto in Francia di un'opera inestimabile di De Chirico. Quindi andiamo su questo argomento sempre più o meno spinoso, che sono le pensioni, col governo che ha presentato ai sindacati un pacchetto di misure sulla previdenza come un emendamento alla legge di bilancio, ma senza un'intesa unitaria con i sindacati, perché la CISL ha dato un parere favorevole, la UIL in un'argomentazione articolata ha detto bah, alla fine abbiamo spuntato dalla trattativa il massimo possibile, la CGIL però è nettamente contraria, anzi fa sapere la leader Camusso che scenderanno in piazza il 2 dicembre. C'è con noi il nostro Marco Loconte del Sole 24 Ore. Caro Marco. Buonasera Roberta, buonasera a tutti gli ascoltatori. Come sintetizzare i punti principali? Sono 12, ma diciamo giusto i più importanti, sì, di questo pacchetto del governo. È un pacchetto che è il caso di precisarlo, domani vedrà la luce formalmente in commissione e sarà definito, e quindi c'è curiosità magari per le ultime limature, ma sostanzialmente quello che il governo ha messo in campo in questo provvedimento sono una serie di aggiustamenti per quanto riguarda per esempio un maggior accesso all'APE social, che è quel prestito che consente, un prestito ponte che consente di andare in pensione un po' prima e che darà uno sconto alle lavoratrici in ragione di un anno per figlio, che è una misura insomma che da tempo è sul tavolo e che è stata messa in campo proprio per soddisfare le esigenze anche del ruolo femminile, non solo al posto del lavoro ma anche nell'attività familiare. Sono state individuate 15 categorie, erano 14 ma una è stata spacchettata, per cui sono diventate 15. Dei lavori gravosi. I gravosi per fare in modo che queste categorie, i lavoratori di queste categorie non venissero toccati dall'adeguamento automatico dell'età pensionistica in ragione delle aspettativa di vita, che ricordiamo cresce per fortuna l'aspettativa di vita, e quindi anche più là, alla fine in ragione di una legge entrata in vigore qualche anno fa, era il governo Berlusconi, il ministro del lavoro era Sacconi, hanno introdotto questo provvedimento che toglie sostanzialmente dalle mani della politica l'età in cui si va in pensione. È un nel 2019 67 anni, no? Sì, per l'ultimo, è un punto importante su cui, a quanto mi risulta, lo stesso ministro dell'economia Piercarlo Padoan ha posto, come dire, una sorta di veto: se si tocca quel provvedimento lui si dimette. Dice, non c'è sostenibilità se no delle risorse, delle finanze dello Stato. Purtroppo quindi l'Italia è così come altri paesi, non siamo i soli, ma l'Italia ha utilizzato soprattutto in campagna elettorale, in prossimità delle elezioni, la leva pensionistica per fare, diciamo, marketing elettorale. E problema che il debito pubblico ne è l'effetto, e quindi è evidente che in questo è un tema molto delicato anche per quanto riguarda i conti pubblici, che sappiamo non sono certo floridi, nonostante un piccolo aumento del PIL registrato nell'ultimo trimestre, le prospettive però non sono rosee per il futuro, e i debiti passati e il deficit sicuramente non ci fa dormire sonni molto tranquilli. Senti, la leader Camusso, quello che le piace meno di questo pacchetto, che cos'è che la contraria di più, che il 2 dicembre scenderanno in piazza? Dice. Lei dice sostanzialmente che l'esiguità delle risorse è frutto delle politiche in corso, di questo tipo di politiche, per cui quello che contesta sostanzialmente l'architettura dell'approccio complessivo di questa misura. Certo, il tema è le risorse, perché tutti vorremmo andare in pensione prima, però la questione è qualcuno deve pagare. Il discorso è abbastanza evidente. Se qualcuno percepisce, sono i vasi comunicanti. Il nostro sistema di ripartizione: i lavoratori pagano per le pensioni di chi ha smesso di lavorare. Sono fatti grandi errori in passato. Nel finanziario 74 è stata introdotta dal governo Rumor una norma che dava la possibilità ai lavoratori pubblici di andare in pensione con 14 anni, 6 mesi e un giorno. Giusto una delle cose. C'è stata gente che è andata in pensione a 31, 32 anni. Si è goduta la vita in modo incredibile. Marco, comunque domani allora si avrà qualcosa di più definitivo, ma insomma in sostanza è quello sul che Sole 24 Ore domani mattina, ecco. Diciamo qualcosa in più su questo tema, non bruciamo tutte le notizie. Domani mattina poi in commissione alle 9:30 si riapre la discussione e vedremo se la notte avrà portato consigli. Grazie Marco Loconte. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro, viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tanti vostri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma devo correre perché abbiamo altri argomenti. Vi ricordo che i principali di oggi sono la previdenza, di cui abbiamo appena parlato, lo Zimbabwe con il dittatore Mugabe che lascia dopo 37 anni, finisce la sua era, politica italiana con Berlusconi che attende per domani il responso di Strasburgo sulla sua candidabilità e Renzi che si dice indisponibile nella possibile alleanza nel centro-sinistra a ripristinare l'articolo 18. Parleremo tra pochissimo di Germania e intanto prosegue la partita del Napoli in campo contro lo Shakhtar in Champions 0-0. Con il nostro Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Ci spostiamo sulla Germania. Dopo le elezioni non ha ancora un governo. Che succede? Quindi la cancelliera Angela Merkel ieri diceva, piuttosto che un governo di minoranza riandiamo alle elezioni. È in un momento di tale difficoltà da far dire oggi a Renzi, che ha incontrato Macron, il presidente francese, dice che è il leader più importante che c'è in Europa, perché la Merkel è ormai in una situazione d'impasse. Quindi improvvisamente questa ribaltone. Ecco. Però diciamo che in questo momento la palla non è nel campo di Angela Merkel, che è anzi uscita anche un po' di scena, ma è nel campo del presidente tedesco Steinmeier, che ha cominciato le consultazioni. Anche qui è interessante raccontare molto rapidamente come non sono come le nostre consultazioni, no? Non so se avete presente, ma i vari leader, anche dei partiti più piccoli e invisibili, che vanno a capo dello Stato, hanno il loro momento di gloria e celebrità all'uscita. Da noi. Con tutti i giornalisti qui sono innanzitutto pochi partiti, ovviamente meno, ma se ne vanno senza fare nessun tipo di conferenza stampa, vanno alla residenza del presidente tedesco, hanno la loro ora di colloquio e se ne vanno senza rilasciare dichiarazioni, quindi tutto molto più sobrio. Però quello che ha fatto oggi Steinmeier è stato vedere prima i Verdi per circa un'ora e poi i liberali di FDP, Colinna, che sono poi quelli che hanno scatenato questa crisi, questo stallo, uscendo dalle trattative domenica notte, non è trapelato praticamente quasi nulla, se non il fatto che il leader liberale Linna ha rilasciato un'intervista dicendo che non vede all'orizzonte un nuovo tentativo di fare una coalizione giamaica, no, con i Verdi, con la destra della CDU-CSU e con i liberali. Diciamo che ora tutti gli occhi si stanno spostando più che altro sui socialdemocratici, qualche voce critica stasera si è levata verso anche la leadership di Martin Schulz, dicendo non scartiamo completamente più a priori, ora che le cose sono effettivamente cambiate, l'idea di quantomeno discutere la possibilità di una nuova grossa coalizione. Lo sapremo di più giovedì mattina, quando Schulz andrà nel suo colloquio con Steinmeier. Ricordiamo anche che Steinmeier è del partito di Schulz, quindi questo forse potrebbe aprire qualche possibilità in più. Però prima di giovedì dovremo capire. Nel frattempo, per chi insomma vuole già cominciare a esercitarsi e guardare al futuro, si parla di elezioni intorno a Pasqua, se si dovesse poi andare effettivamente al voto. Grazie Sergio Nava. Grazie a te, ciao. Ciao Sergio. Oh, invece adesso Dario Ricci ci dice se mi pare che sia sempre 0-0 la partita del Napoli in Champions, Dario? Sì, Roberta, hai perfettamente ragione, 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk al San Paolo, che in questo momento eliminerebbe il Napoli dalla corsa agli ottavi di finale, e molto probabilmente a quel punto il destino dei partenopei sarebbe il terzo posto, cioè diciamo la retrocessione tra virgolette in Europa League, ma aspettiamo a dirlo perché siamo appena al 52esimo, certo, di gioco. Certo che questi ucraini sono davvero una bella squadra, vi ricordavo la bella occasione avuta da Tyson al settimo minuto, poi anche Marlon ha impegnato Reina. Per i partenopei di Sarri, la bella conclusione al 27esimo di Insigne, prontissimo Piatov, il portiere ucraino dello Shakhtar, a salvare in calcio d'angolo. Siamo al 53esimo di gioco, quindi al San Paolo ancora 0-0 tra Napoli e Shakhtar Donetsk. Dario, abbiamo ancora un minuto, sì, e mezzo. Ci sono nuovi guai per Tavecchio, ex presidente della FIGC, che ieri si è dimesso dopo le pressioni per la mancata qualificazione mondiali. C'è una dirigente sportiva rimasta anonima che dice che lo accusa di molestie sessuali, di aver detto cose molto volgari, di averla anche palpeggiata. Eh sì, questa tra l'altro proprio la Zanzara poco fa ha ospitato il legale di questa dirigente, come saprai Roberta, sì, che certo, ha ribadito queste accuse, l'intenzione di denunciare l'ormai ex presidente della Federcalcio. Sicuramente un guaio in più in un periodo in cui Tavecchio ha perso parecchie ore di sonno, diciamo così. E diciamo in annellate varie, quindi in passato, e vediamo se anche... Sì, anche se su quest'ultima vicenda aspettiamo poi sì, che... Sì, certo, video e audio dice di avere, lei però che appunto si faccia aspettiamo... completa luce. Certo. Grazie Dario Ricci. Grazie a te. Ciao Dario, intanto prosegue la partita 0-0, ci saranno ancora diversi minuti, noi però ci dobbiamo qui lasciare, poi vi ricordo che mi ritrovate alle 22 brevemente per i titoli principali.